sei sintonizzato su M2O. Non è che stai ascoltando una radio a capocchia. You may think he's a snippet-type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you see him use a gun, boy. When you see him use a gun. Fate spesso l'amore. E l'elisir per vivere 100 anni. Ci sono 1 miliardo di buoni motivi per farlo, ma tra questi, per esempio, fare l'amore fa bene al cuore. Fare l'amore è un buon esercizio aerobico, migliora la circolazione e fa funzionare meglio il cuore. Le persone che hanno una vita sessuale attiva tendono a soffrire in misura minore della media di attacchi di cuore. L'esistenzialismo solo un'ennesima moda francese o una curiosità storica è perché credo che abbia qualcosa di molto importante da offrirci per il nuovo secolo. Io temo che stiamo perdendo la capacità del vivere la vita con passione, di assumerci la responsabilità di quello che siamo, la capacità di raggiungere dei risultati e di sentirci soddisfatti della vita. L'esistenzialismo viene spesso trattato come una filosofia della disperazione, ma io credo che sia esattamente l'opposto. Sartre in un'intervista ha detto che non aveva mai vissuto un solo giorno di disperazione. Quello che viene fuori dalla lettura di questi filosofi non è tanto un senso di angoscia nei confronti della vita, ma al contrario, una certa esaltazione nel sentirsi padroni della vita stessa. Siamo noi, cioè, a crearci la nostra vita. Il cammino di Gigi D'Agostino. Qualcosa fa. Non è che siamo qui a inzuppare i savoiardi. Cammino di Gigi D'Agostino, tutto a posto. Ci sintoniamo, sintonizziamo nella frequenza Capitolpic, M2O. Merci un po' la cassa. Ma che è? Non capisco più niente. E mo davvero, davvero. Allora, fare spesso l'amore è una medicina naturale, il vero elisir di lunga vita. Altri incredibili motivi a qualcuno sconosciuti, a me per esempio sconosciuti, io non sapevo che facesse così tanto bene, e infatti era un po' che non lo facevo.

Se non vuoi giorni grigi, scrivi a Gigi, che sono io. Il numero di telefono per mandare il vostro SMS con una qualsiasi cosa, una dedica, un pensiero, un commento a questo cammino, un qualsiasi cosa che voi volete scrivere, no? Il numero è il seguente, prendi tutto, carta e penna, vai. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Lo so scritto anch'io, non si sa mai. Interessante, secondo me, è il fatto che noi usiamo lo stesso identico sistema di simboli per comunicare tutti i fenomeni astratti e intangibili che si presentano nella nostra vita. Come si esprime la frustrazione? O come si esprime la rabbia o l'amore? Quando dico la parola amore, il suono viene fuori dalla mia bocca e colpisce l'orecchio dell'altra persona, viaggia attraverso un intricato percorso che porta al cervello, attraverso i ricordi d'amore o di mancanza d'amore. E l'altra persona registra quello che dico e dice di capire, ma io come faccio a saperlo? Perché le parole sono inerti, sono simboli, sono morte, capisci? E una grandissima parte di tutta la nostra esperienza è intangibile. Gran parte di quello che percepiamo non può essere espressa con le parole. Eppure, quando noi comunichiamo l'uno con l'altro e sentiamo di avere stabilito un contatto e crediamo di essere stati capiti, secondo me proviamo una sensazione quasi di comunione spirituale. E di nuovo cambio casa, di nuovo cambiano le cose, di nuovo cambio luna e quartiere, come cambia l'orizzonte. Cambio posto e chiedo scusa, ma qui non c'è nessuno come me. E stasera do a lavare il mio vestito per l'amore. Cambio donna e cambio umore stasera. E stasera voglio uscire che mi facciano parlare. Voglio ridere, voglio bere io. Stasera cambio. Dentro casa, inverno e fuori no. E vendo casa per un motore, la soluzione è la migliore. Un motore certamente può tirare. La mia fantasia è un po' danneggiata, da troppo tempo parcheggiata. E poi cambiare casa, cambiano le cose.

Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che testa. Muoviti la testa. È il cammino del Gigi D'Agostino. Questo programma musical mental, olé, me gusta mucho más que cacho. La musica è un forte sentimento. Sesso, amore, dolce e violento. Dalla dance più conosciuta alla nuova sonorità mai vissuta. Dalla melodia più raffinata alla martellata più incazzata. Gigi D'Agostino è lento, violento, molto violento. Gigi D'Agostino. Dai, chi? Giorni grigi, scrivi a Gigi. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. What?

Se non credi in questa storia, domandati perché. Ricerca nella memoria quello che fu di te. A volte il vincitore è semplicemente un sognatore che non ha mai mollato. Jim Morrison. Che vogliono dire che non sognavo. che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. Ciò che ci distingue, gli uni dagli altri, sono i nostri sogni. E quel che facciamo perché si realizzino. Joseph Epstein. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Ci sentiamo domani. Grazie.